366. Cappone in galantina. Vi descriverò un cappone in galantina fatto in casa mia e servito a un pranzo di 10 persone, ma poteva bastare per 20, poiché pelato risultò chilogrammi 1,500. Vuotato e disossato, per disossare un pollo, vedi il numero 258. Rimase chilogrammi 0,700 e fu riempito con la quantità di ingredienti che qui appresso vi descrivo. Magro di vitella di latte grammi 200, detto di maiale grammi 200, mezzo petto di pollastra, lardone grammi 100, lingua salata grammi 80, prosciutto grasso e magro grammi 40, tartufi neri grammi 40, pistacchi grammi 20, mancandovi il maiale, può servire il petto di tacchino. I tartufi tagliateli a pezzi grossi come le nocciole e i pistacchi sbucciateli nell'acqua calda. Tutto il resto tagliatelo a filetti della grossezza di un dito scarso e mettetelo da parte salando le carni. Fate un battuto con altro maiale e con altra vitella di latte, grammi 200 di carne in tutto, pestatelo fine in un mortaio con grammi 60 di midolla di pane bagnata nel brodo. Aggiungete un uovo, le bucce dei tartufi, i ritagli della lingua e del prosciutto, conditelo con sale e pepe e quando ogni cosa è ben pesta, passatelo per istaccio. Ora allargate il cappone, salatelo alquanto e cominciate a distendervi sopra un poco di battuto e poi un suolo di filetti intercalati nelle diverse qualità, qualche pezzetto di tartufo e qualche pistacchio, e così di seguito un suolo di filetti e una spalmatura di battuto finché avrete roba. Avvertendo che i filetti del petto di pollastra è meglio collocarli verso la coda del cappone per non accumulare sul petto di questo la stessa qualità di carne. Ciò eseguito, tirate su i lembi del cappone dalle due parti laterali, non badando se non si uniscono perfettamente, che ciò non importa, e cucitelo. Legatelo per il lungo con uno spago e involtatelo stretto in un pannolino che avrete prima lavato, onde togliergli l'odore di bucato. Legate le due estremità del medesimo e mettetelo a bollire nell'acqua per 2 ore e mezzo. Dopo scioglietelo, lavate il pannolino e poi di nuovo rinvoltatelo e mettetelo sotto un peso in piano e in modo che il petto del cappone resti al di sotto o al di sopra, e in questa posizione tenetelo per un paio d'ore almeno, onde prenda una forma alquanto schiacciata. L'acqua dove ha bollito il cappone può servirvi per brodo e anche per la gelatina numero 3.